Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Come sapete, con il nostro programma avete delle certezze. Una di queste è che a settembre ci si occupa di un tema molto importante che un po' si lega anche all'argomento che abbiamo affrontato ieri quando ci siamo occupati di bollette di luce e gas. Il tema di oggi è la manutenzione della caldaia. Sappiamo bene che entro qualche settimana cominceremo ad accendere gli impianti di riscaldamento, speriamo il più tardi possibile, sia quelli autonomi che quelli centralizzati. La nostra caldaia è a posto? Siamo sicuri che anche il nostro condominio sia in regola? Abbiamo fatto il controllo fumi? E lo sapete che sono cambiate un'altra volta le regole dei controlli, che non riguardano solamente l'impianto di riscaldamento ma anche gli impianti di climatizzazione, quindi il condizionatore estivo. E proprio su questo un paio di giorni fa ci ha scritto un'ascoltatrice: vi invito a fare una puntata sulle nuove scadenze per il controllo obbligatorio sulle caldaie domestiche, passato da 2 a 4 anni, se ho ben capito. La stagione fredda si avvicina e vorrei avere maggior chiarezza. Allora salutiamo Cristina, che abbiamo subito accolto telefonicamente, abbiamo approfittato della sua sollecitazione naturalmente per sentire qualche dettaglio in più rispetto a quello che non le è chiaro. Cristina, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, mi chiamo Cristina e sono di Bergamo. Niente, io quest'estate ho letto sul giornale della mia città di queste novità e ho cercato di capire un po' meglio via internet cos'erano le novità, però vuoi che ti rimane sempre un po' qualche dubbio, vuoi che in internet c'è sempre scritto un po' tutto il contrario di tutto. Certo. Va bene, finché era estate ho detto vabbè, riprenderò l'argomento a settembre. E settembre è arrivato. Esatto, poi ho iniziato un po' a chiacchierare con parenti e amici e mi sono accorta che nessuno sapeva di queste nuove norme e che addirittura c'era ancora confusione tra il controllo, quello obbligatorio ogni 2 anni, piuttosto che quello facoltativo annuale. Beh, quando l'ha fatto Cristina l'ultima volta? Io l'ho fatto nel 2012, infatti ho controllato, la mia è una caldaia nuova, meno di 8 anni, è una caldaia a condensazione, quindi diciamo quella che viene definita una buona caldaia, e quindi sarei in regola con anzi l'ho fatto anche l'anno scorso, non obbligatorio, quindi sarei comunque in regola con la normativa. Però bisogna vedere quello che dice, da quello che ho capito io, ma stamattina andremo ancora più nel dettaglio, quello che dice il suo libretto di impianto. Ah, questo non l'ho guardato, ecco, questo no. Perché esatto. Teoricamente, come dire, l'installatore potrebbe aver previsto qualcos'altro, la società che gli ha fornito appunto la caldaia, quindi l'impianto. Per cui Cristina effettivamente ha fatto bene a sollecitarci, perché alla luce delle ultime novità, in realtà, quanto pare a noi, la situazione sia ancora più confusa. Per cui forse per non saperne leggere e scrivere, è bene questo controllo farlo tutti gli anni, però diciamo che in termini di legge questo obbligo non c'è. Cristina, grazie per averci dato modo appunto di affrontare questo tema. Sia all'ascolto. Grazie a voi, buongiorno. E speriamo di chiarirle le idee. Nella sostanza, quello che sappiamo è che da qualche mese è in vigore un provvedimento che uniforma l'Italia alle norme europee sulla cadenza dei controlli sull'efficienza energetica degli impianti termici. E allora che cosa cambia di nuovo per le famiglie? 1 anno, 2 anni, 4 anni? Che cadenze ha questa manutenzione? Soprattutto quanto costa? Cosa devono pagare ragionevolmente i consumatori per questo servizio? Facciamo ancora una volta, speriamo, un po' di chiarezza. Luca Falco, presidente dei bruciatoristi manutentori di Confartigianato, ormai il nostro punto di riferimento su questi argomenti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie di avermi ospitato ancora. E buongiorno anche a Mauro Zanini, vicepresidente nazionale di Federconsumatori, oltre che responsabile energia e servizi di rete per questa organizzazione. Buongiorno Zanini, benvenuto anche a lei. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, anche a Falco. Ecco qua, allora ascoltatori che ci possono chiamare, come ha già fatto Cristina, all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, su Facebook il nostro profilo è su salvadanaio-radio24, su Twitter ci trovate su @salvadanaio24. Allora sentiamo un po', ieri io e Marco Lombardo abbiamo un po' studiato la situazione, nella nostra scheda vi raccontiamo quello che abbiamo capito noi. Con l'inizio dell'autunno si avvicina anche il momento di verificare il funzionamento del proprio impianto di riscaldamento domestico. Da quest'anno le regole cambiano, uniformandosi a una direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia e diventando di fatto meno severe delle precedenti. La frequenza dei controlli sull'efficienza energetica della propria caldaia è fissata a 2 anni per gli impianti a combustibile liquido o solido e a 4 anni per quelli a gas, metano o GPL. Maglie che si allargano decisamente, quindi, rispetto alle normative in vigore fino allo scorso inverno, quando i controlli erano previsti ogni 2 anni per gli impianti a gas e per quelli che superavano gli 8 anni di età, ogni 4 per le caldaie di tipo B o C e ogni anno per combustibili liquidi o solidi e in tutti gli altri casi. Il risparmio viene quantificato dalle associazioni dei consumatori tra i 60 e gli 80 euro annui. La notizia potrà far piacere alle famiglie, che si vedono obbligate a fare questa spesa più raramente. Piace meno, senza dubbio, ai professionisti del settore. A tal proposito, il nuovo regolamento prevede inoltre che le ispezioni per gli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti, fissando i requisiti e i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l'indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica. Cammini, spazza, cammin, allegro e felice, pensieri non ho. Invece c'è qualche pensiero per le famiglie italiane che a questo punto, alla luce delle ultime novità, non sanno bene quello che devono fare. Luca Falco, comincio subito con lei, presidente dei bruciatoristi e manutentori di Confartigianato. Prima di entrare nella polemica, perché so già che voi in qualche maniera contestate le nuove cadenze temporali dei controlli, ci aiuti a capire queste novità, dopodiché andremo anche alle vostre prese di posizione, che sono ben differenti da quelle delle associazioni dei consumatori, che chiaramente vedono solo il beneficio del portafoglio delle famiglie italiane. E allora, il primo controllo che dobbiamo fare intanto è capire che tipo di caldaia abbiamo in casa, sì, e rifare un punto sull'ultima volta che abbiamo fatto il controllo. Esatto, intanto dobbiamo iniziare a conoscere cosa c'è stato installato in casa. Questo è fondamentale, perché questo nuovo decreto riordina tutto ciò che riguarda le manutenzioni degli impianti, dicendo anche che pure gli impianti di climatizzazione estiva devono essere controllati, quindi non solo quelli di climatizzazione invernale. Andiamo adesso a quelli invernali, appunto, andando che è la scadenza più imminente. Andando a quelli invernali, che sono più imminenti, hanno spostato le date per il controllo di efficienza energetica, dicendo che il controllo di efficienza energetica, a seconda del tipo di generatore, può essere dilatato. Quindi sarebbero i 4 anni di cui si parlava. È anche stato detto che il controllo di efficienza energetica da 10 a 100 kW si effettua con una cadenza molto molto ampia, e questa è una cosa che a noi un pochino vi ha fatto prendere posizione non propriamente positiva. Ha fatto strizzare i capelli proprio, perché ecco. Si parla di anche caldaie di piccoli condomini. Questo perché, non perché al Ministero non facciano attenzione alla sicurezza delle case, ma perché questo è un decreto che parla solo di efficienza energetica, non di sicurezza. Difatti è ben chiaro, e questo bisogna dirlo ai cittadini, che devono comprenderlo, c'è un articolo che dice chiaramente che una cosa è l'efficienza energetica e il controllo di efficienza energetica, un'altra è l'ispezione sugli impianti ai fini della sicurezza. Quindi bisogna guardare le carte che ci vengono consegnate dall'installatore e il libretto di istruzioni del generatore. L'efficienza energetica, mi scusi se la interrompo, Falco, è il controllo fumi nella sostanza, si equivalgono, ecco, le due cose, tanto per capire, insomma. Praticamente sì. Il fatto è che in Italia non abbiamo mai avuto una norma che regolasse la verifica ai fini della sicurezza, che è stata sopperita da quello che era il controllo energetico. Una caldaia che non viene controllata, allora l'efficienza energetica va bene, inquiniamo meno e consumiamo meno, è importante, ma una caldaia non controllata, non verificata, può diventare pericolosa. Per quello bisogna fare attenzione esattamente a cosa dice il produttore del generatore o l'installatore coscienzioso, che quando ha rilasciato la documentazione, il certificato di conformità, ha rilasciato anche il libretto di istruzioni dell'impianto. Questa è una cosa fondamentale. Non si può generalizzare. Una caldaia e un impianto sono cuciti sull'edificio, quindi è importante, quando ho sentito domandare prima ma cosa dice il libretto di istruzioni, spesso la legge, le persone i libretti di istruzioni non li leggono, e invece è importante leggerli, perché lì si scopre come si utilizza al meglio e quali controlli e quando vanno effettuati. Allora, sono tutte sicuramente ragionamenti di buonsenso, perché è chiaro che tutte le famiglie italiane, tutti i bravi padri di famiglia vorranno avere la certezza di avere un impianto in casa totalmente sicuro. Detto questo, poi però, quando arriva questo periodo, siccome le spese sono tante, che ci si debba mettere pure i 100 euro e io arrotondo per difetto, perché sappiamo bene che qualche tecnico vuole anche qualche cifra un po' più alta, è chiaro che quando poi arriva una norma che ti dice non è obbligatorio che tu faccia quest'anno questo controllo e quindi puoi risparmiare 100, 150 euro, 80, è chiaro che il padre di famiglia gli interessa più questo aspetto. Mauro Zanini, quindi chiaramente con tutte le tematiche della sicurezza non è che non possiamo che essere d'accordo, però il tema è che qua non c'è più trippa per gatti, come si dice, il portafoglio piange e le famiglie laddove possono risparmiare lo fanno. Esatto. Sì, credo che il tema, come è stato richiamato, sia molto importante, soprattutto è ovvio che il cittadino, la famiglia, il consumatore deve attenersi alle istruzioni indicate dall'installatore della caldaia, o in mancanza di questi da parte della ditta fabbricatrice della caldaia stessa, e quindi dà delle indicazioni e su cui è importante, il fine della sicurezza, attenersi a queste, prima di tutto per quanto riguarda la manutenzione della caldaia. Il tema dell'efficienza, la novità c'è, è molto importante, che può comportare, visto per le caldaie tradizionali che sono dai 12 di potenza fino a 100, e quindi in questo caso la periodicità dei controlli di efficienza energetica, il controllo combustione, il cosiddetto controllo fumi, passa 4 anni rispetto a una cadenza e quindi che prima era di 2, quindi è un fatto importante, certo, che potrà implicare un risparmio medio sulle 50 euro 60 a seconda delle diverse realtà. Quello che va precisato, che magari vale la pena anche segnalarlo ai nostri ascoltatori, che poi ci piaccia o non ci piace, in realtà tutta questa nuova tempistica nella regolamentazione appunto della manutenzione, Luca Falco, questo va detto, magari lei ci aiuti a farlo, ce l'ha detto l'Europa di farlo, perché mi pare che l'Italia si sia dovuta adeguare ad una direttiva europea, e tra l'altro in relazione a questo adeguamento eravamo anche in ritardo ed eravamo già sotto procedura di infrazione. È una di quelle infrazioni che passano un po' meno all'ordine della cronaca finanziaria, però tutto sommato l'Europa ci stava bacchettando anche su questo. Allora, l'Europa ci stava bacchettando sul fatto che le ispezioni da parte dell'ente pubblico sugli impianti dovevano essere fatti solo da una certa soglia di potenza in più, perché teoricamente l'Europa dice che i cittadini non devono vivere in uno stato di polizia, per cui è anche giusto che una volta che un cittadino effettua la sua corretta manutenzione non debba essere vessato continuamente con pratiche, autocertificazioni o quant'altro, tant'è che la cosa importante di questo decreto dice chiaramente che il certificato che rilascia, il rapporto di controllo che rilascia il manutentore è sostitutivo dell'ispezione da parte dell'ente pubblico, cioè in casa al cittadino non deve entrarci chiunque ogni volta, e ogni volta che decidono. Se un cittadino ligio decide di far controllare la sua caldaia e chiama un manutentore serio, questo gli lascia un certificato, questo certificato viene spedito all'ente pubblico che si occupa delle verifiche. Che quindi non deve più venire in casa a fare il controllo a sua volta. Esatto, anzi è obbligato a verificare tutti coloro che non effettuano il controllo. Senta, in tutto questo, adesso a parte appunto quello che ci ha chiesto l'Europa di fare, non abbiamo risposto a Cristina, perché da quello che capisco appunto ha una caldaia totalmente nuova, di quelle a condensazione, un controllo lo ha fatto lo scorso anno. Secondo lei, Cristina, quest'anno che cosa deve fare? Guardi, deve prendere proprio il libretto di istruzioni e vedere cosa c'è scritto, perché spesso le istruzioni variano da modello a modello. È difficile che un produttore di generatori di calore dica che ai fini del corretto funzionamento della sicurezza la caldaia non debba essere verificata tutti gli anni. Io non ho ancora trovato, forse c'è un'azienda che... Quindi, no, teoricamente, diciamo che la caldaia di Cristina, che ha già avuto un controllo lo scorso anno, teoricamente quest'anno potrebbe saltarlo e farlo l'anno prossimo, ma se nel libretto dell'impianto c'è scritto qualcosa di diverso, il controllo magari per la sicurezza Cristina deve farlo, ma non è quello invece sull'efficienza energetica. Esatto. Mamma, cioè, dopo 10 anni di trasmissione su questo argomento qualcosa mi sarà pure entrato in testa, santo cielo. Detto questo però, ecco, Cristina, il tema è che comunque un tecnico in casa lo deve far tornare a far fare un controllo diverso, perché il libretto potrebbe dire questo. Esatto, assolutamente sì. Poi quelli che il tecnico andrà a fare sono i controlli più importanti, perché sono quelli, ripeto, lo so che l'ho ripetuto tante volte oramai, sono quelli relativi alla sicurezza dell'impianto, quindi la tenuta dell'impianto gas, la tenuta dei condotti fumo, verificare che le sicurezze interne alla caldaia siano efficienti e funzionanti, che stupidaggine, anche la presenza d'aria, quella la può verificare il cittadino, ma che il vaso di espansione sia carico, perché sennò è un organo di sicurezza che se si scarica non funziona e mette in crisi l'impianto. Sono tante le cose che si controllano durante una verifica di impianto, quindi non è una cosa così leggera. Certo. Spesso sono automatizzate e il tecnico, se è professionale, non impiega molto perché ha l'ausilio di strumentazione. No, dopo ci fa anche una rosa di costi accettabili, appunto, che un tecnico per un lavoro di questo tipo deve chiedere. E c'è un ascoltatore, lo stavo guardando adesso perché in realtà è un tema che ieri, così chiacchierando con lui telefonicamente, mi ha sollecitato, anzi stamattina, Mauro Zanini, il tema anche della disciplina regionale, che è differente su questi argomenti, per cui ancora una volta un altro caso in cui la normativa nazionale si va ad incrociare con quella regionale, questa seconda prevale. Ernesto ci scrive: le regioni possono derogare da quanto voi state dicendo, perché il mio bruciatorista mi dice che la regione Lombardia mantiene le vecchie scadenze. Adesso ci arriviamo, ci metto anche una domanda di un ascoltatore, così a tutti quanti rispondiamo dopo la nostra prima pausa. Chi prendiamo per primo? Prendiamo Silvia da Bologna. Buongiorno Silvia. Buongiorno, io ho una caldaia a legna che pulisco io, faccio io la manutenzione 2 o 3 volte l'anno, perché una volta l'anno non basta, e volevo sapere, sono a posto così, devo fare qualcos'altro? Grazie Silvia, che cosa facciamo? Ci fermiamo, siamo già pronti per la nostra prima pausa. 800 24 00 24, intanto il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi, raccontateci che impianto avete in casa o nel vostro condominio e cercheremo di spiegarvi se è il caso di fare da zero tutti gli accertamenti, i controlli, o se qualcuno potete saltarne per risparmiare un po'. Cam camini spazza camin, allegro e felice, pensieri non ho. Invece qualche pensiero le famiglie italiane ce l'hanno, soprattutto adesso che si sta avvicinando l'autunno e che stanno interrogandosi se è tempo di fare il controllo della caldaia, che tipo di controllo va fatto, perché abbiamo capito questa mattina che i controlli sono tanti e tutti hanno denominazioni diverse, quanto devono spendere, e questo alla luce di una novità che è in vigore da metà luglio, da quando il governo ha emanato questo provvedimento che rinnova la disciplina che riguarda i controlli di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernali, le caldaie, ma anche estiva, cioè i climatizzatori, tema che ancora non abbiamo toccato perché siamo fuori stagione, probabilmente qua il prossimo giugno dovremo fare una puntata su questo, ma in ogni caso il tema è: allora, che tipo di controllo va fatto, quanto costa il controllo sulla efficienza energetica e quanto invece il controllo per la sicurezza, che non è legato invece al provvedimento appunto del governo di cui stiamo parlando questa mattina. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta. Prima di rispondere all'ascoltatrice che ha una caldaia a legna, volevo ritornare ai consumatori. Mauro Zanini, vicepresidente di Federconsumatori, per chiedere a lui un commento su quello che abbiamo detto all'inizio trasmissione, anche se l'abbiamo già sentito, ma soprattutto che cosa vi dicono i risparmiatori, i consumatori che si rivolgono alla vostra associazione. Si lamentano per questo adempimento? Quanto spendono? Denunciano di spendere troppo? Insomma, che cosa vi dicono a questo proposito? Beh, intanto è importante quello che ci dicono, soprattutto è che sempre di più tende ad aumentare i costi della manutenzione delle caldaie e anche del controllo combustione. E proprio negli ultimi anni, insomma, siamo diventate delle cifre significative che mediamente, insomma, aggirano dai 70 ai 100 euro annuali. Ecco, naturalmente dipende dal posto, dipende dalla regione, e quindi questo è un costo medio significativo sui bilanci delle famiglie in una fase di così grave crisi in cui si fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Questo è un aspetto, come dire, siamo consapevoli comunque su questo versante che, certo, per quanto riguarda la manutenzione e i controlli, bisogna attenersi all'istruzione che abbiamo prima richiamato del costruttore della caldaia o di chi ha installato l'impianto, mentre per quanto riguarda invece la novità è che il controllo efficienza combustione ci si rifà ogni 4 anni, mentre prima era ogni 2 anni. Questo se la caldaia è a gas o a metano, perché se la caldaia ha un'alimentazione diversa, a gas metano, che ha un costo medio sul 40, 50, 60 euro il controllo combustione, quindi avrà la possibilità di poter risparmiare, mentre prima il controllo era obbligatorio ogni 2 anni, adesso lo sarà ogni 4. C'è da tenere presente che il parco caldaie negli ultimi anni di evoluzione tecnologica, insomma, richiede meno manutenzione, e purtroppo però insomma, siamo di fronte che spesso i costruttori di caldaie danno istruzioni nella manutenzione mantenendo sempre il riferimento di un controllo annuale, certo. E credo che su questo sia un aspetto, come dire, insomma, che sia importante anche verificare. Io so ad esempio che una grossa azienda italiana che commercializza, visto che l'Italia è uno dei tre, il sistema produttivo delle caldaie, siamo forti esportatori in Europa, sì. E in altri paesi a volte la manutenzione, le istruzioni vengono date dove di fare il controllo ogni 2, in Italia in genere viene fatto ogni anno, e credo che questo sia anche, come dire, non sì. sempre sia giustificato. Ma esatto, un po' abbiamo l'impressione che sia un'altra gabella imposta. Esatto, appunto. Anche perché insomma, dire, le pressioni che ci sono in questo settore sono notevoli, insomma, noi sappiamo che mediamente insomma, in un anno ormai il parco delle caldaie italiane, che sono circa 20 milioni di caldaie in Italia, insomma, è composto da un terzo da caldaie a condensazione, quindi sempre più efficienti, con un forte rendimento energetico, insomma, meno emissioni di anidride carbonica, quindi si va nella giusta direzione, però insomma, il costo della manutenzione, il costo in generale, insomma, pesa in modo significativo sui bilanci delle famiglie. In alcune province sono stati fatti anche degli accordi tra associazioni di consumatori e installatori e diciamo i manutentori degli impianti assieme alle province o i comuni, e rimane comunque il dato per contenere i prezzi, ma purtroppo in molti casi c'è presenza di prezzi molto al di fuori, diciamo, delle medie che noi indichiamo, esatto, come ragionevoli, ecco. Un altro aspetto vorrei richiamare il tema della legislazione per quanto riguarda le deroghe regionali, esatto. Su questo, allora, l'ultimo provvedimento del governo è che ha recepito una direttiva europea, essendo primo inadempiente su questa materia, prevede che il provvedimento nazionale deve essere assunto come riferimento minimo inderogabile, quindi questi sono i riferimenti minimi. Fatto sta che siamo in alcune regioni, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino e Friuli, Emilia, Toscana, Puglia e Sicilia, dove le regioni hanno legiferato in materia e quindi hanno definito delle cadenze temporali per i controlli di manutenzione delle caldaie, ma soprattutto per l'efficienza energetica, a volte più ravvicinati rispetto alla norma nazionale. Quindi la deroga è, come dire, tra virgolette, peggiorativa per il consumatore, esatto, per la in famiglia. In molti casi è peggiorativa in quanto nell'ambito delle sollecitazioni e pressioni nei confronti dei legislatori regionali, in molti casi hanno una tempistica di maggior frequenza, soprattutto quindi allora oltre a guardare il libretto, esatto, parte delle famiglie italiane, oltre a controllare il libretto d'impianto e a conoscere la ditta che ci ha installato appunto l'impianto che abbiamo in casa, dobbiamo anche essere a conoscenza della normativa regionale, perché esatto, potrebbe darci un'indicazione ulteriore rispetto al nostro comportamento. E allora insomma, tante notizie, speriamo di aver detto tutto chiaramente questa mattina. È chiaro che poi gli ascoltatori che cosa fanno? Guardano all'interno della propria abitazione e dicono: e allora io che cosa devo fare alla luce di tutto questo? Adesso ritorneremo su casi specifici. Chiedo a Luca Falco un chiarimento sul tema della caldaia legna, se vuole. Non so se è abituato a fare manutenzione su un impianto di questo tipo, perché non è la tipologia di impianto, oppure è combustibile solido? Allora, tanto questa legna, parliamo di biomasse. Le biomasse sono una cosa che viene spesso presa alla leggera, anche perché se iniziamo a ragionare su quante stufe a pellet o caldaie a pellet ci sono sul territorio italiano, i numeri sono importanti. E le caldaie a legna o pellet, comunque chiamiamola biomassa in generale, sono a volte più semplici per l'utente da gestire, ma questa semplicità comporta alcuni controlli, alcune verifiche molto importanti, soprattutto prima sentivo la canzoncina di Lo spazio cammino di Mary Poppins, sì. Esatto, la canna fumaria è fondamentale per il corretto funzionamento di queste apparecchiature, soprattutto perché l'incendio di canna fumaria è uno tra gli accadimenti più gravi e più devastanti che possa capitare a un'abitazione, perché se si utilizza non correttamente, non si pulisce correttamente, si forma del deposito nella canna fumaria che con l'andare del tempo rallenta il deflusso dei fumi e si incendia. Incendia raggiungendo temperature molto alte e spesso dando fuoco al tetto. Quindi sulle biomasse è importantissimo ancora di più ancora oltre quello che è il risparmio energetico, la sicurezza. E per quanto riguarda il risparmio energetico, ancora manca a noi operatori la normativa per verificare la corretta combustione delle biomasse, non è ancora uscita, quindi noi non sappiamo tecnicamente come si debba fare. Quindi è un po' un problema, è importante anche lì veramente, i libretti di istruzioni delle apparecchiature a biomasse sono molto ma molto specifici e molto ben fatti, di solito di prodotti di una certa qualità. Diffidate quando si acquista una stufa, una caldaietta a biomasse, quelle che hanno libretti di istruzioni di una paginetta, perché diventa pericoloso, perché lì la responsabilità è di chi la usa. E quindi poi diventa veramente difficile. Va bene, senta Falco, per andare alla ciccia, sì. Poi ritorniamo agli ascoltatori. Allora, io ho in casa una caldaietta a gas, appunto per riscaldare l'abitazione, sì. Come quella che sarà presente in molte case italiane. Una di quelle che teoricamente dovrebbe avere un controllo di efficienza energetica ogni 4 anni, ammettendo che io lo deva fare quest'anno, no? Siamo al 4º anno, sì. Adesso a parte c'è la disciplina nuova, devo farlo quest'anno, in più devo fare anche, perché lo dice il libretto di impianto, il controllo per la sicurezza. Sì. Quanto posso ragionevolmente spendere? Me la cavo con 150 euro per tutte e due le operazioni? O è troppo, sì. Poco? No, di solito se la cava, cioè un prezzo medio che assolutamente se la cava. Consideri che purtroppo io abito in una zona dove non ho ZTL, quindi non ho difficoltà. Le zone con ZTL o con problemi di posteggio sono... Quindi sono tutte quegli extra che ci carica eventualmente il tecnico che ci viene a visitare? Quindi conviene che si chieda un preventivo, si faccia un contratto di manutenzione anche. E si spieghi pure dove si abita, perché altrimenti c'è pure quello. Va bene, allora ancora un ascoltatore, andiamo a Davide da Ferrara. Davide, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo fare solo alcune precisazioni. Poi innanzitutto mi manca anche un pezzo di trasmissione perché ero in auto quando l'ho sentito, adesso sono tornato in ufficio. Io mi occupo appunto di controlli sugli impianti di riscaldamento per il comune di Ferrara. Ottimo. E quindi sono quello che in pratica entra nelle case. Ho sentito il pezzo dove si diceva appunto che il cittadino non ha sempre piacere che qualcuno vada in casa. Non abbiamo detto esattamente questo. A volte, perché poi si sentono vessati, no? Questa cosa che già noi facciamo vedere la caldaia, già spendiamo soldi per manutentarla, e poi il comune viene anche a vederci, quindi perché non si fida, perché lì poi attorno al riscaldamento c'è un mondo che è abbastanza, anche posso dire anche un po' di avanguardia per certi aspetti, perché ci sono, che so, manutentori che non sempre sono qualificati. Lo so che poi Falco si arrabbia, però si arrabbia anche lui, perché naturalmente non vuole rappresentare nella sua categoria naturalmente anche questi personaggi. Comunque Davide, può andare a sintetizzare gentilmente, perché devo andare in pausa. No, va bene, io volevo solo sintetizzare, appunto, ripeto, mi è venuto meno un pezzo di trasmissione, quindi non ho seguito, però appunto io sono arrivato fino al punto in cui si diceva che era una legge nazionale, però appunto poi ho sentito poi abbiamo spiegato che c'era la diretta, ogni regione riesce comunque, fa la data o legifera a suo modo. Va bene. Comunque, vabbè, io volevo, sì, c'è un mondo da aprire in quel senso lì, perché... Intanto quello che facciamo, Davide, noi facciamo conoscere appunto le novità normative in modo tale che le persone siano informate appunto di quello che devono fare. Poi chiaramente, anche e soprattutto per la questione del controllo e la sicurezza, appunto ognuno può anche stabilire quello che vuole in casa sua, nel senso che si vuole rischiare di tenere un impianto non controllato per 10 anni, può fare quello che vuole, però di fatto appunto, pur non intervenendo dal punto di vista legislativo in maniera molto forte, appunto in realtà è come dire un tema che i consumatori devono invece tenere bene a mente. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, le nuove scadenze per il controllo, la manutenzione della caldaia, il controllo di efficienza energetica, il controllo per la sicurezza, due aspetti diversi, disciplinati anche in maniera diversa appunto dalla normativa nazionale, ci metterei anche europea. Un paio di ascoltatori ancora, poi andiamo ancora. Luca Falco di Confartigianato Bruciaturisti Manutentori e Mauro Zanini di Federconsumatori. Allora, Marco da Vicenza, buongiorno, rapidissimo, grazie. Sì, buongiorno. Senta, io volevo sapere una cosa. La mia caldaia è stata installata nel 97, adesso siamo nel 2013. Eh sì. Quanti anni può durare una caldaia? Ah, beh, la sua è bella, come dire, bella anzianotta, comunque in ottima forma, mi pare di capire, se lei ancora ce l'ha in casa. Grazie Marco, giriamo adesso la sua domanda ai nostri esperti. Ci metto insieme anche Giuseppe da Rimini. Giuseppe, buongiorno. Sì, salve. A me interessava sapere soprattutto se la manutenzione ordinaria, ora ho saputo da voi che effettivamente ora il controllo dei fumi si fa ogni 4 anni, benissimo, e volevo sapere ora se la manutenzione ordinaria era obbligatoria ogni 2 anni oppure io potevo obbligatoriamente fare solo il controllo dei fumi. Poi volevo fare un'altra considerazione, se ho un po' di tempo, perché effettivamente ce n'è poco, Giuseppe, sia sintetico, grazie. 5 minuti. Ecco. Un minuto. Il discorso è questo, che io 3 anni fa ho cambiato la caldaia, proprio per, sta sfondando una porta aperta quel signore della Confartigianato, perché effettivamente io 3 anni fa ho cambiato la caldaia, perché subentrato in una casa di un altro proprietario, ho cambiato la caldaia. Allora l'installatore che proseguendo sempre, già questo mi faceva la manutenzione già da prima, cambiando la caldaia, lui mi aveva intimato di fare l'abbonamento ugualmente ogni anno, non manifestandomi che c'era questa nuova direttiva regionale e dicendomi che io allora ho detto che c'era sta cosa, quindi non era necessario fare sta manutenzione. Lui allora mi ha ribadito dicendo che effettivamente se io non facevo la manutenzione la garanzia della caldaia non era valida, anche era un'altra fesseria. Allora Giuseppe, aspetti un attimo che qua c'è da affrontare anche tutto l'aspetto di professionisti che a volte appunto mi ha intimato, ha detto Giuseppe appunto, di fare questo abbonamento annuale. In realtà molto spesso i professionisti, Luca Falco, lo fanno proprio per rendere un po' più leggero anche questi impegni annuali di controllo sulla sicurezza, visto che è quello annuale che andrebbe fatto, no? E poi anche per l'efficienza energetica, qualora dovesse essere fatto periodicamente questo controllo, visto che deve essere fatto, questo abbonamento annuale molti professionisti lo permettono di sottoscrivere proprio per rendere questo impegno dal punto di vista finanziario ogni anno un po' più leggero. Esatto, assolutamente. Allora, intanto una cosa, io per abitudine consiglio a tutti i miei colleghi, ogni qualvolta si va da un cliente, di scrivere qualsiasi cosa, anche di scrivere eventualmente ai fini della sicurezza il libretto di istruzioni dove riporta e quando va controllato e cosa. Perché è importante, perché spesso quando uno spiega tutto quanto poi va via dal cliente, il cliente magari vuoi la fretta nostra di parlare, vuoi tanti problemi, non ci si riesce a capire, per cui rimanendo scritto una persona può capire esattamente cosa gli è stato detto. Ora dipende dal tipo di generatore, dipende sempre da quello. C'è un'azienda tedesca che viene venduta in Italia dove il manuale è tradotto dal tedesco all'italiano ed è assolutamente tutti gli anni. Anche perché poi c'è un fatto, io facevo 2 calcoli mentre sentivo parlare, si parla di una cifra che varia a circa 20 centesimi al giorno per la manutenzione. E una volta i controlli relativi all'efficienza energetica, come sarà ancora adesso, comprendevano anche dei controlli relativi alla sicurezza, perché quando io vado in casa di un mio cliente a verificare la sua caldaia, non controllo solo con l'analizzatore di combustione che questo non inquini, controllo anche che tutto funzioni e mi è richiesto, è obbligatorio farlo da parte del tecnico. È un controllo serio, non è un foglio. Purtroppo ho dei colleghi che lo considerano un foglio, ma ho tanti colleghi che considerano questo un lavoro serio. E un e modo quindi per è un documento ben compilato, naturalmente, tutto vantaggio e beneficio, esatto, dell'ascoltatore. Senta un po', Marco da Vicenza, che invece ha questa caldaia da 17 anni, diciamo che probabilmente non è proprio un impianto dal punto di vista dell'efficienza energetica ottimale, un po' datato direi. Però... Esatto, cioè è come... faccio 2 conti, caspita, un bel po' di anni, vuol dire che sicuramente è un gran prodotto di qualità, per cui se deve sostituirlo gli consiglio di ritornare sullo stesso marchio e sicuramente lui ha effettuato delle manutenzioni corrette e l'ha utilizzata nel modo corretto, perché è una simpatica vecchiettina. Ecco, però diciamo che lui chiedeva ogni quanto va cambiata la caldaia, adesso lì da questo punto di vista non c'è nessun termine di legge. No, non c'è nessun termine di legge, il termine di legge lo dà il limite minimo di rendimento di combustione. E poi è una questione di efficienza, cioè quanto decido di continuare a regalare ai magnati, passatemi la battuta, ai magnati del petrolio, quando invece decido di tenermi in tasca, per cui un buon generatore tarato correttamente, manutenzionato correttamente e di nuova concezione fa risparmiare tanti soldi. Allora Mauro Zanini, torno da lei, Federconsumatori, perché so che su questi argomenti le associazioni dei consumatori continuano a chiedere delle campagne informative nazionali rivolte a tutti i cittadini molto chiare, ma insomma mi pare che qua se non le fate voi, anzi invitiamo Luca Falco magari con Confartigianato a fare una bella operazione di divulgazione di tutte queste novità. Zanini, non potete fare certo sempre tutto voi. Intanto credo che sarà importante, direi che fra un mese dovrebbe uscire, questo è l'impegno del Ministero, a fare anche una circolare, diciamo, che renda ancora più chiara la materia, essendo spesso molto intrigato. Speriamo che lo sia veramente. Detto questo, credo che il versante delle campagne informative, visto che lo prevede esplicitamente il decreto che è appena uscito, che è già applicato, e che tutte le regioni si attivano anche in concerto con le associazioni dei consumatori a promuovere anche campagne informative rispetto a una materia che tocca molto direttamente i bilanci e soprattutto tocca molto le corde sensibili di milioni di cittadini, perché il tema dell'efficienza e del risparmio energetico è un tema che passa anche e soprattutto nella manutenzione della caldaia, ma soprattutto anche sul versante del controllo combustione, quindi è un tema questo che è molto importante. Credo che si possa lavorare anche assieme alle associazioni dei termotecnici che prestano assistenza, in quanto è una materia molto importante, ecco. E auspichiamo che si possano fare, perché questo è un aspetto dove c'è ancora molto da fare in termini di dare adeguate informazioni. Infatti, allora, diciamo che allora, mentre voi potete fare informazione sulle novità legislative, a Luca Falco facciamo fare un po' di campagna di sensibilizzazione verso i professionisti che sono associati e che non si comportano molto correttamente e danno informazioni non chiare alle famiglie. L'ultima cosa che voglio raccontarvi è che ci ha scritto Cristina, l'ascoltatrice con la quale abbiamo aperto il nostro programma, alla quale avevamo suggerito di guardare il manuale della caldaia, il quale lei ci ha scritto appunto che lo ha fatto e dice che per mantenere bassi consumi e l'impatto ambientale si consiglia il controllo annuale. Tuttavia il mio caldaista mi ha confessato in modo onesto, ci racconta Cristina, che per una caldaia come la mia, marchio tedesco di fascia alta e recente, il controllo ogni 2 anni è ok. E va bene, qui abbiamo stabilito quindi un rapporto corretto con un professionista. Grazie a Luca Falco e a Mauro Zanini per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani. A tutti buona giornata. Salva Danaio.